Il giardino segreto. Il verde dentro le città. Di Roberta Pellegatta. L'unico motivo per cui il riscaldamento globale sembra inarrestabile è che non abbiamo ancora provato a fermarlo. Greg Easterbrook. Bentrovati al Giardino Segreto, buona domenica anche da parte mia. In che stagione siamo? Voi l'avete capito? Dovrebbe essere inverno e invece c'è il sole, un tepore primaverile e la natura che da nord a sud si risveglia con un anticipo preoccupante, a tal punto da far lanciare col diretti l'ennesimo allarme per un'agricoltura ormai in tilt. Le piante sono ingannate da una falsa primavera che mette in pericolo le coltivazioni e anche, la cosa è meno grave ma a noi sta molto a cuore, i nostri giardini urbani, i nostri vasi di città. Come difendere le une e le altre da questo clima cambiato a cui quanto pare dobbiamo abituarci? Per rispondere a queste domande ho chiamato un esperto qualche giorno fa, per la precisione martedì scorso, l'11 febbraio, quando ricordo c'erano 18 gradi a Milano, non che poi la situazione sia molto cambiata nei giorni successivi e neanche oggi. Ben trovato al Giardino Segreto a Luca Saba, direttore di Coldiretti Sardegna. Buongiorno a tutti voi. A Milano ci sono 18 gradi, non so come si sta in Sardegna, Luca Saba. Qua se non ci fosse vento si potrebbe stare al mare, ecco, quindi si sta bene, credo che ci siano una ventina di gradi, ecco, in questo momento. Stiamo per parlare delle piante ingannate dalla falsa primavera, ma devo dire che anche noi umani. Sì, è vero. Non sappiamo più che stagione stiamo vivendo. Coldiretti ha lanciato l'allarme, ha avvertito da nord a sud in Italia le piante chiaramente stanno reagendo in una maniera che non è normale, pensano sia già primavera, ci sono le mimose, Coldiretti dice in Liguria, ma la mia collega a Milano ha già la mimosa fiorita sul terrazzo e insomma potremmo andare avanti con gli esempi, mandorli in fiore, problemi di siccità. Sì. Devo dire che Coldiretti questo allarme lo sta lanciando da qualche anno, è stata la stessa cosa l'anno scorso, 2 anni fa. Quest'anno c'è qualcosa di diverso o insomma è semplicemente quello che ci si attendeva? Ma no, è quello che ci si attendeva, non chiaramente nel periodo, però che il clima in qualche modo faccia e continua a fare delle bizze, è normale, perché quello che sta succedendo e che abbiamo rilevato è un innalzamento della temperatura superiore ai 0,96 gradi dal 1800 a oggi, quindi un grado di differenza sembra così poco, in realtà nella media è un dato molto preoccupante, ma tutti gli studiosi, tutti gli scienziati, tutte le università italiane ci stanno avvisando di questo clima cambiato. Allo stesso tempo però, una volta che è cambiato non dobbiamo più parlare del clima cambiato, dobbiamo cominciare a correre ai ripari, per cui preparare tutte le nostre aziende, tutti i nostri sistemi produttivi ad un adeguamento rispetto ai fenomeni intensi che potranno sempre più capitare nel tempo, cioè nubifragi estivi o fioriture primaverili, quindi dobbiamo in qualche modo preparare tutte le nostre campagne, perché purtroppo non è più il clima che sta cambiando, ma il clima che oggi dobbiamo dire è già cambiato. Ma come ci si prepara a una rivoluzione come questa? Guardi, ci sono dei sistemi che sono preventivi attraverso, soprattutto per dei fenomeni di carattere eccezionale, e sono quello che ad esempio sta facendo insieme a noi l'Associazione Nazionale Bonifiche Italiane, l'ANBI, sulla regimazione delle acque, sta presentando numerosi progetti per far sì che innanzitutto le acque piovane di piogge intense non vadano perse, ma possano essere convogliate presso laghetti collinari che dovremo far costruire sempre più alle aziende, per cercare in qualche modo di conservare quell'acqua che, anche se violenta, continua a scendere, e l'altro per evitare di trovare sempre strade dissestate oppure campi allagati, tutto ciò che riguarda la regimazione delle acque e la regimazione di quelli che sono i fiumi, in qualche modo, che vanno a contenere le acque in eccesso. Sono interventi strutturali che possiamo fare ex ante per far sì che i danni, che poi contano anche denaro, che sono denaro molto spesso che viene dalla Comunità Europea, dall'Italia, per cui denaro pubblico che va a indennizzare le aziende che subiscono naturalmente i danni, però possa essere in qualche modo risparmiato, per cui investire oggi significherebbe evitare di spendere anno dopo anno queste risorse. Dall'altra bisogna cominciare a capire che probabilmente se il clima è cambiato e se ripetutamente una cultura invernale, una cultura estiva ha troppi danni da questi fenomeni climatici ripetuti, bisogna chiaramente cominciare a studiare, a lavorare su nuove culture. per cui la Comunità Europea da questo punto di vista potrebbe aiutare le aziende ad investire insieme all'università su nuove colture che possano essere sostenibili in un clima cambiato. Non parlo chiaramente di piante assolutamente tropicali, ma abbiamo alcuni casi che già, soprattutto nel sud Italia, cominciano a giustificare l'arrivo di piante tropicali. Ecco, parliamo di questo. Di norma al Giardino Segreto ci occupiamo del verde dentro le città, ma mi sembra importante in questo momento pensare alle campagne, alle nostre coltivazioni. Che cos'è in particolare in questo momento sta soffrendo? È paradossale, perché ha fatto un novembre dove è piovuto tantissimo praticamente tutti i giorni, per cui abbiamo i bacini pieni. Noi soprattutto in Sardegna soffriamo di siccità spesso e volentieri. Abbiamo la siccità nelle zone non irrigue. Nelle zone irrigue fortunatamente c'è l'acqua. Tutte le colture però non irrigue chiaramente in questo momento stanno soffrendo. Per esempio quali? Le parlo del carciofo. In questo momento il carciofo in pieno campo per noi è una coltura importantissima. Ne facciamo 12.000 ettari in Sardegna. Sta particolarmente soffrendo, per cui dobbiamo dare un'irrigazione di soccorso a cui non eravamo abituati in questo periodo, insomma. Oppure il problema, come diceva lei all'inizio, è anche quello delle fioriture anticipate, non solo delle mimose ma anche di tutte le fruttifere che in questo momento si preparano in qualche modo, soprattutto le nettarine, per cominciare insomma intorno a maggio-giugno a dare le proprie produzioni, insomma. Le parlo come nettarine naturalmente di pesche, di albicocche eccetera, che in qualche modo vanno con un fiore anticipato in questo momento, che potrebbe non sembrare nulla, ma siccome sicuramente ritornerà adesso un periodo freddo, questa cosa farà avere una cascola anticipata di questi fiori, e quindi bisogna capire se poi la pianta riuscirà a riprendersi per il periodo di fioritura naturale. Questo non va bene, la nostra frutta la vogliamo. Certo. E quindi che fare in un futuro delle nostre piante da frutto? Lei dice, ma dovremmo pensare ad un futuro a sostituire anche qualche... In alcuni casi sì, guardi, le dico che in Sardegna sempre più aziende dall'estero si stanno avvicinando, ad esempio perché stanno trovando qua un clima adeguato alla produzione di avocado, che è una coltura che per noi è completamente sconosciuta, per cui si sta già lavorando su qualche impianto sperimentale al fine di provare se appunto le condizioni climatiche che abbiamo in Sardegna possano essere adeguate per questo tipo di cultura. Chiaramente noi non è che siamo molto contenti di dover raggiungere questo tipo di sistema, però non possiamo neanche contrastare un clima che ormai purtroppo abbiamo già rovinato, non ci saremmo dovuti lamentare 30-40 anni fa probabilmente in maniera più pesante. Lo so, siamo in ritardo, tuttavia qualcosa bisogna fare, e i suoi suggerimenti concreti secondo me rappresentano una linea da seguire. Adesso io la porto nel nostro orticello, so che lei è abituato a parlare di agricoltura, ma noi gente di città abbiamo il nostro balcone, il nostro terrazzo, il nostro piccolo giardino urbano che obiettivamente in gran parte dei casi sta rifiorendo, germogli, gemme, ma come dobbiamo comportarci? Siamo un po' disorientati appunto da quello che sta succedendo, no? Ma guardi, è difficile, un po' il campo si comporta come il giardino di città da questo punto di vista. Diciamo che dove ci sono piccole coltivazioni da vaso, le cose possono essere due: o far continuare in qualche modo la fioritura però sotto serra e cercare di capire che cosa succede al clima. Non ce l'abbiamo la serra. Parlo di piccole serre. Un tessuto non tessuto. Insomma. Sì, in tessuto non tessuto, in film plastici magari che possono coprire e soprattutto evitare che ci siano sbalzi climatici elevati, quindi possono supportare questo momento. Oppure è difficile, purtroppo succederà quasi sicuramente di vedere una piccola pianta spuntare e poi magari anche qualcosa che non riesce ad andare avanti, che magari va a morire. È difficile intervenire, ripeto, perché gli sbalzi climatici, come lei ha detto anche prima, io adesso ho guardato precisamente, qua ci sono 19 gradi, per cui ci sono 10 gradi, 11 gradi di differenza che francamente è difficile contrastare se non con dei meccanismi protettivi, come si protegge l'uomo quando fuori c'è troppo freddo, va dentro un locale dove si spera insomma che ci sia una temperatura più mite. Io ho coperto le mie peogne, le chiugemme sono già altissime, con il tessuto non tessuto doppio, credo che ormai stiano soffocando. Sì. Con 19 gradi però. sì, no, le metto all'aria adesso, infatti, bisogna dare molta attenzione alle piante in questo momento, ma è incredibile, vedo la fioritura attuale dei gerani, hanno ripreso una fioritura anticipata, insomma, ed è un po' un momento anomalo, perché in realtà adesso è il momento delle piante invernali, quelle che sviluppano a bulbo soprattutto, no? Per cui insomma è una confusione, direttore. È una confusione totale, ci sono in questo momento in fioritura piante invernali e piante, diciamo così, primaverili e estive insieme. Noi stiamo imparando, no, in questo periodo periodo attraverso questa trasmissione. Ci insegnano che d'inverno bisogna sospendere le bagnature, no? Non bisogna bagnare le piante, però quando le vediamo germogliare... Sì, esatto. Diciamo che è vero, bisogna sospendere le bagnature proprio perché ci sono 10 gradi di differenza rispetto adesso, però quando la terra è troppo secca e anche la pianta comincia a variare anche di colore, significa che c'è una sofferenza della pianta che ha necessità comunque evidentemente di avere acqua, soprattutto perché la pianta, che è un meccanismo complesso come, insomma, come l'uomo, sente il calore e interpreta quel calore come una fioritura, per cui c'è una domanda in qualche modo di acqua dovuta a un risveglio vegetativo che è anomalo. Ecco perché bisogna evitare che soffra due volte la pianta, sia perché magari ne ha una necessaria esigenza per il terreno particolarmente secco, anche se in quel momento è in dormienza, sia però perché sente un risveglio vegetativo pesante che potrebbe eventualmente, insomma, virare anche verso un'anticipazione di una macerazione della pianta, di una secchezza della pianta non voluta. Ecco. Quindi lei ci sta dicendo bagniamo? Sì, assolutamente, là dove, senza esagerare, là non è errato mettere un po' d'acqua, senza esagerare, insomma. Ecco. Abbiamo capito che dobbiamo essere elastici, osserviamo le nostre piante, vediamo quello che ci comunicano e agiamo, anche se al di fuori delle regole canoniche. Certo, le regole canoniche dicono quello, però poi è la natura che comanda, quindi se la pianta sente il risveglio vegetativo, bisogna rispondere al risveglio vegetativo, insomma, in quel modo. Grazie al direttore di Coldiretti Sardegna, Luca Saba. Grazie a voi, buona giornata, arrivederci. Mi piace quando un fiore o un piccolo ciuffo d'erba crescono attraverso una fessura nel cemento. È così dannatamente eroico. George Carlin. Tra poco parliamo di terra e anche di cemento, perché, come dice qualcuno, solo rigenerando il suolo è possibile contenere la catastrofe climatica. Tra poco dunque abbasseremo gli occhi per ammirare quello che c'è sotto i nostri piedi e riflettere su come salvaguardare. Il giardino segreto. Il paradiso è sotto i nostri piedi, così come sulle nostre teste. Henri David Thoreau. Vi porto a Treviso, dove giovedì e venerdì prossimi tornano le giornate internazionali di studio sul paesaggio. Il titolo di questa 16ª edizione è Suolo come paesaggio, una 2 giorni di convegno con esperti da tutto il mondo per riflettere sulla terra, intesa come suolo, ma anche come pianeta, perché il suolo che calpestiamo in realtà è un sistema complesso, aperto, vivo, che interagisce con l'ambiente esterno. Dunque, salvaguardare il suolo significa salvare tutto il resto. Bentrovato al Giardino Segreto, ad uno dei curatori delle giornate trevigiane, l'architetto paesaggista Luigi Latini. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Qualcuno dice, in questo caso un filosofo, uno scrittore statunitense, Thoreau, che il paradiso è sotto i nostri piedi, così come sopra le nostre teste. Una riflessione chiaramente facciamo. È vero, sì. È una delle ragioni per cui ci siamo mobilitati su questo tema. Non a caso non l'abbiamo intitolato suolo e paesaggio, ma suolo come paesaggio. Il suolo è qualcosa che ha una sua autonomia, una propria dignità, direi, in forma di nutrimento, per esempio. Oppure anche in forma di prospettive. Ci sono dei suoli che noi consideriamo in chiave negativa, perché sono contaminati, o sono dei suoli negati, negletti, e il senso delle giornate di studio è proprio di intercettare esperienze e prospettive che hanno guardato anche a queste forme, diciamo, di negatività, come per esempio i suoli contaminati, come un'opportunità. Spesso quando passeggio a Milano in città, appunto, guardo in basso e vedo l'asfalto e mi sorprendo ad immaginare cosa c'è sotto questo asfalto, cui io sono abituatissimo ormai. Si parla di suolo urbano, anche di suolo urbano in questo convegno. Sì, noi parliamo di suoli urbani, abbiamo cercato anche di parlare di asfalto nel vero senso della parola, coinvolgendo anche uno studio di paesaggisti parigini, i Wagon Landscape, che quali sollecitano le menti e anche gli amministratori su questo tema, come quello di demolire dei tratti di asfalto e assecondare in qualche maniera un processo di insediamento di piante spontanee, di piante pioniere, che si accontentano anche di suoli molto, molto poveri, quindi di condizioni di partenza. E quindi dal punto di vista della percezione del cittadino, anche dell'immaginario urbano, quello che si considera il grado zero può essere invece con un semplice atto di demolizione di una piccola parte di questa crosta, un atto di inversione di rotta e di inversione di sguardo. Quindi l'asfalto che può diventare quello che noi in modo molto semplice consideriamo un prato, ma in modo più articolato possiamo dire anche un giardino, no? Proprio l'inizio di un processo di appropriazione, di restituzione di bellezza in ultima analisi. Il cambiamento climatico credo influisca anche sulla terra. Sì, parleremo anche di cambiamento climatico, però implicitamente tutti gli approfondimenti che cerchiamo di fare convergono verso una visione più attrezzata, più organica rispetto a questo grosso tema. Quindi abbiamo parlato di depaving o di demolizione di croste, ho fatto un cenno a un'inversione di rotta nello sguardo sui territori contaminati, aree industriali dismesse, aree contaminate che poi possono diventare l'inizio di un processo inverso, no? Di riqualificazione, di coinvolgimento di comunità. Penso che da un punto di vista simbolico abbiamo coinvolto, per ragionare di questa inversione di sguardo o arricchimento di sguardo, abbiamo coinvolto anche un relatore il quale farà un cenno al giardino di un artista britannico, Derek Jarman, abbastanza famoso. Gliel'avrei chiesto, sta parlando di Antonio Perazzi, che noi conosciamo, sì. È stato ospite al Giardino Segreto, bene. Lui e il suo giardino selvatico. Appunto, parlare di questo giardino di Derek Jarman che è visitabile. Sì, è nel sud dell'Inghilterra. È interessante questo caso perché è la storia della costruzione, dell'ideazione di un giardino che parte da delle condizioni di estrema contaminazione. La localizzazione di questo Prospect Cottage è tra le più sfortunate, guarda una centrale nucleare, quindi è un po' la quintessenza della povertà, no? Se si pensa al giardino come luogo ideale di forme seducenti che appagano il nostro desiderio di bellezza. In realtà l'osservazione, la riflessione di Jarman è proprio quella di ricavare da un territorio apparentemente sterile delle condizioni di vita che poi possono sviluppare una diversa forma di estetica, e quindi è un invito a non avere delle suggestioni e dei pregiudizi nei confronti del suolo, operazioni di riqualificazione come nel caso della relazione che avremo sulle terre dei fuochi in Campania, sono un espediente anche per coinvolgere le comunità, sviluppare anche in chiave didattica degli sguardi nuovi su questi suoli che sono considerati appunto condannati e famigerati. Tornando al giardino di Derek Jarman, che ha una storia importantissima per il giardino in sé, che è nato dal nulla, offrendo davvero un'alternativa a tutti, perché avere un giardino si può anche nei contesti più difficili, ma insomma anche il giardiniere ha una grande storia. Voglio dire che il giardino di Derek Jarman è stato pubblicato anche in italiano di recente, credo Nottetempo Edizioni, e quindi chi vuole conoscere questa storia lo può fare attraverso questo libro oppure assistendo al convegno di Treviso giovedì e venerdì prossimo, perché si parlerà anche di questo. A proposito di suolo, architetto Latini, noi anche al Giardino Segreto stiamo parlando molto ultimamente della coltivazione idroponica, quella che del suolo, del terriccio, del terreno fa a meno. Abbiamo parlato dei progetti di vertical farming che ormai sono abbastanza avanzati. Sì. Queste possibilità di coltivare in città, tra l'altro recuperando edifici dismessi, periferie degradate, per cui è tutto positivo. Gli ascoltatori, tra l'altro, hanno risposto con commenti molto positivi a questo tipo di coltivazione, che però a me lascia perplessa proprio per questa mancanza della terra. A me fa bene, mi fa bene toccarla, ecco. È banale il mio pensiero? No, quello che dice mi stimola a allargare un po' il campo, però lo condivido, condivido il fatto che c'è un grandissimo interesse verso questo tema. Glielo confermo anche per il lavoro che faccio io di insegnante, Posso dire a un appassionato di questo tipo di argomenti è che un negozio di fiorista non è un paesaggio, è un edificio con dei contenitori dove ci sono dei fiori. Credo che un paesaggio ha bisogno di un contatto, come dice lei, con la terra, e quindi devono essere delle strutture anche molto tecnologicamente avanzate, però il rapporto con la terra è imprescindibile, secondo me, da un punto di vista di una visione del paesaggio nel quale il suolo gioca un ruolo. Semmai ci siamo avvicinati a questo tema perché c'è anche una relazione che si intitola provocatoriamente Senza suolo, no? E parla di tutte le esperienze che riguardano l'orticoltura urbana, il giardinaggio urbano, community garden, tutto quello che vuole, in caso in cui non si dispone di un suolo. Ci sono molti casi in Europa dove le persone si inventano delle forme provvisorie di giardino, di orto, che migrano e che colonizzano spazi abbandonati o spazi che temporaneamente non sono utilizzati, come il Tempelhof di Berlino. Ma fino alla città dei morti al Cairo conosciamo molte esperienze di questo tipo. Il discorso dell'idroponica invece appartiene a una mentalità, appunto, in cui il contatto con la terra sparisce completamente, diventa una struttura produttiva e la parola paesaggio assume un termine molto più generico, meno pregnante. Uno dei vostri relatori, Rosario Pavia, spiegherà che solo rigenerando il suolo è possibile contenere la catastrofe climatica. Quindi tutte le nostre montagne, i nostri territori terrazzati e tutti i problemi che riguardano da sempre l'astuzia e l'intelligenza dell'uomo nel contenere l'erosione, per esempio, fanno parte appunto di una storia lunghissima che ha prodotto tecniche, bellezza e soprattutto paesaggio, no? Che è quello che stiamo inseguendo con la mente e con il cuore. Ormai da 16 anni, perché questa è la 16ª edizione. Sì. Suolo come paesaggio si può seguire online, perché ci sarà diretta streaming, quindi non occorre per forza andare a Treviso, e il sito è quello della Fondazione Benetton, FBSR, Fondazione Benetton Studi e Ricerche. Sì. Architetto Latini, grazie per essere stato con noi. Grazie a lei e grazie agli ascoltatori soprattutto. Dimenticare come scavare la terra e prendersi cura del suolo è dimenticare noi stessi. Mahatma Gandhi. È tutto per oggi. Il Giardino Segreto torna domenica prossima, sempre a metà pomeriggio alle 15.30. Ma tutte le puntate vengono poi archiviate nel nostro sito www.radio24.it, per cui potete scegliere voi l'ora in cui ascoltare. Grazie a Carmelo Lauricella che ha curato la regia. A voi per l'ascolto. Una buona settimana green da Roberta Pellegatta.